certamente il governo terrà conto dell'opinione dei sindacati. Air France fa un'offerta naturalmente che tiene conto della difficoltà di Alitalia, però bisogna considerare che se si è arrivati all'offerta di Air France è perché altri non hanno fatto offerte, altrimenti un'altra valutazione sarebbe stata sicuramente apprezzabile per noi. Purtroppo Alitalia è stata lasciata nel corso degli anni in una condizione via via più drammatica. Il governo ha dovuto farsene carico, anche perché i governi precedenti non lo avevano fatto. Avevano lasciato che la situazione diventasse sempre più critica senza fare nulla. E la prospettiva era quella ed è quella del fallimento se non c'è qualcuno che provvede. Quindi è inutile che facciamo un dibattito teorico. Se c'è una proposta italiana, ben venga.